Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. Oggi ci sarò io in conduzione di questo programma, domani torna il titolare Sebastiano Barisoni. Il numero per gli sms, come sempre, è il 349-238-6666. Di cosa parleremo oggi? Beh, al centro dell'attenzione c'è senza dubbio, come evento economico della giornata, l'assemblea annuale di Confindustria, che quest'anno si è svolta in un luogo diverso, nella sede di Viale dell'Astronomia, bensì all'Expo a Milano, come di consueto, con la presenza di ministri, c'era il ministro dello sviluppo economico Guidi, quello del lavoro Poletti, c'erano ovviamente i sindacati, ascolteremo anche le reazioni, ma l'attenzione si concentrerà sulla relazione del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, una relazione ampia, come spesso avviene in questi casi, che è partita e si è concentrata soprattutto nella parte iniziale sull'Europa e sulla necessità che l'Europa dia, parole di Squinzi, un colpo d'ala al quale potrebbe contribuire effettivamente, secondo il presidente di Confindustria, l'Italia, soprattutto in questa fase. Per quanto riguarda il fronte interno, ha parlato anche di Grecia Squinzi, ovviamente, e sentiremo anche la sua voce tra poco. Sul fronte interno c'è un riconoscimento complessivo all'esecutivo per aver lavorato bene, anche se un riconoscimento parziale del lavoro fatto. Con le riforme qualcosa si muove e sta cambiando, dice Squinzi, testimoniano questi movimenti e queste riforme testimoniano tanto il lavoro dell'esecutivo quanto l'impegno di Confindustria. E al governo si rivolge Squinzi e dice: attenzione, noi non chiediamo niente, ossia non abbiamo richieste specifiche da fare, vogliamo solamente che l'esecutivo resti determinato nel fare le riforme. Poi anche un richiamo di attenzione, quella possiamo considerare una piccola nota polemica ma non rivolta espressamente al governo, però dice, insomma, ogni tanto è successo negli anni e qualche volta succede ancora oggi che ci sia qualche manina che inserisce all'interno dei provvedimenti delle norme che sono nitidamente anti-impresa. Questo fa parte, ha battuto su questo tasto Squinzi, non è la prima volta che lo fa, non è la prima volta che lo fanno gli imprenditori. In questo paese c'è una sorta di mentalità anti-impresa, si tende a vedere l'imprenditore semplicemente come uno sfruttatore, mai come una persona che semplicemente opera sul mercato e crea sviluppo. Su questo torneremo più avanti, ci andremo nella seconda parte della trasmissione, ospiteremo il collega ed editorialista del Sole 24 Ore Guido Gentili, che ci aiuterà a commentare. Ci sono ovviamente anche le reazioni sindacali, alcune dure come prevedibile, quella della CGIL innanzitutto. L'altro tema del quale ci occuperemo, uno degli altri temi dei quali ci occuperemo, è il cosiddetto made in, ossia l'etichettatura dei prodotti che provengono dall'Europa. Sta succedendo che è in corso una trattativa molto serrata in questa fase. È una trattativa che vede in prima fila l'Italia. Italia che vorrebbe il riconoscimento dell'etichettatura per 5 tipi di prodotti: calzature, ceramica, oreficeria, tessile e moda, mobili. Stiamo parlando in questo momento di comparto non alimentare. Ebbene, ci sono una serie di paesi, tra cui la Germania, che vorrebbero limitare questo numero a 2. La Lettonia, il presidente di turno, sta cercando di gestire la mediazione, ma in realtà è d'accordo con la Germania. Quindi da questo punto di vista al momento non si avanza. Le parole del vice ministro dello sviluppo economico Calenda sono state molto dure, perché ha detto che è una situazione surreale, ha chiesto ai paesi del no che almeno smettano di raccontarsi balle sul fatto che vogliono crescita e occupazione, quindi non esattamente morbido. L'altro tema che toccheremo è la Cina, perché in poche settimane abbiamo registrato il terzo caso di insolvenza di una grande azienda, in questo caso una società di bottiglia. E ci sono forti preoccupazioni che, insomma, ci possa essere una sorta di bolla del debito per le aziende cinesi. Non a caso questa mattina la borsa di Shanghai ha chiuso in netto ribasso. Ci occuperemo, come sempre, di mercati. Mercati che oggi sono negativi, un meno 0,6% sul FTSE MIB, mezzo punto percentuale di calo sul FTSE All-Share, meno 1,19% per Parigi, Francoforte meno 1,03%, Londra meno 0,20%, l'America cede lo 0,28% sullo Standard & Poor's 500 e lo 0,33% sul Dow Jones. In questo momento il titolo migliore è di Microelectronics, che guadagna il 3,17%, Finmeccanica il 2,09%, Enel Green Power l'1,6%, e in fondo all'estino Saipem meno 3%, CNH meno 2,04%, Popolare Emilia Romagna meno 1,7%, Tenaris meno 1,5%. Ma sui mercati torneremo più avanti. Intanto andiamo con le notizie in breve di oggi. Saluto nuovamente intanto l'ascoltatore che ha un messaggio fotocopia e scrive: basta con questo tizio, noi vogliamo Barisoni, e scrive tizio maiuscolo. Ci abbiamo scherzato molto l'ultima volta che l'ha scritto. Questo tizio maiuscolo che mi fa sentire, insomma, migliore, ecco. Le materie prime in apertura: l'oro stabile a $1,187 l'oncia. Per quel che riguarda il petrolio, siamo ad un calo dell'1,5% per il WTI con consegna a luglio, a $56,6 al barile. Il Brent, il petrolio del Mare del Nord, quotato a Londra, e siamo sempre sulla consegna a luglio, un calo dell'1% a $61,4 il barile. A proposito di economia internazionale, abbiamo la Russia, e anche questo è collegato ai prezzi dell'energia, non solo a quelli, ma anche ai prezzi dell'energia. Prevede un calo del PIL nel 2015 a meno 2,8%, dopo il più 0,6% registrato nel 2014. Per il 2016 e il 2017 si attende una crescita del 2,3%. Tutto ciò con un'inflazione che per quest'anno è vista all'11,9%. Oggi la Russia però si è concentrata su un altro tema, quello dello scandalo che ha travolto la FIFA, della quale abbiamo anche parlato del quale abbiamo parlato anche diffusamente poco fa in GR24. Il presidente russo Putin ha detto che su Blatter vengono esercitate pressioni per impedire i mondiali in Russia. Il ministro dello sport russo Vitali Mutko dice: non c'è il rischio che noi perdiamo i mondiali. La nostra campagna per la presentazione della richiesta fu condotta onestamente. La Russia è un paese aperto e democratico. La Russia non è coinvolta nella corruzione. A questa vicenda sono dedicati 100 secondi dell'economia in collaborazione con RDS, oggi curati dal vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Putin in campo che difende Blatter. Dietro lo scontro sull'inchiesta internazionale lanciata dall'FBI e delle autorità americane sulla corruzione nel calcio internazionale, si stanno innescando cose completamente diverse da quelle sportive. È ovvio che dietro lo scontro non c'è soltanto un'operazione mani pulite o fischietti puliti, c'è sicuramente qualcosa di più. C'è la pressione che gli Stati Uniti stanno aumentando enormemente sulla Russia. Non è un caso se più che del Qatar, che è rimasto coinvolto insieme alla Russia sull'ipotesi ipotesi di tangenti per ottenere i mondiali di calcio, il Qatar sia uscito dai radar e sia rimasta soltanto la Russia. Non c'è soltanto lo scontro sull'Ucraina, c'è qualche cosa di più, c'è il tentativo degli Stati Uniti di isolare anche finanziariamente il Cremlino e Putin dal contesto internazionale. I mondiali sono occasione di business sicuramente, ma anche di pubblicità per un paese, ed è proprio ciò che non vogliono gli americani, che chiusa la porta del grande commercio internazionale contro la Russia, proprio dalla finestra rientra il mondo civilizzato e soprattutto lo sport. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Siamo alle cronache dalla Grecia. La Banca Centrale Europea chiede un'intesa rapida, dice che c'è il rischio di un contagio, tutto questo nella Financial Stability Review, sottolineando che la lunghezza e l'incertezza delle trattative portano estrema volatilità nella borsa greca, e non solo in quella, a dire il vero, seppur non così pronunciata come all'epoca di quella che potremmo definire la prima crisi o la prima esplosione della crisi. Il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, dice che sulla Grecia le cose si sono mosse, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Ma quante volte avremo sentito dichiarazioni come queste? Progressi, ma non ancora risultati sostanziali nel negoziato. E quante volte avremo sentito dichiarazioni come queste? Sempre il Fondo Monetario dice ci aspettiamo che la Grecia rispetti i suoi impegni, perché chi manca i pagamenti non potrà più avere accesso ai finanziamenti, e questo vale per ogni paese. Un altro portavoce, anzi il vice portavoce del Fondo Monetario Internazionale, poi anche qua sulla comunicazione il Fondo Monetario Internazionale forse si deve dare un orientamento specifico, comunque perché nello stesso giorno parlano il direttore generale, un portavoce e il vice portavoce, e ciascuno dice, aggiunge cose, qualcun altro le toglie. È necessario che sulla Grecia si raggiunga un accordo il prima possibile, dice di nuovo il vice portavoce del Fondo Monetario Internazionale. Non ci aspettiamo che avvenga, perché sull'uscita, a proposito di una possibile uscita dall'Eurozona, non ci aspettiamo che avvenga perché il prezzo da pagare sarebbe altissimo. Secondo alcune fonti il Fondo Monetario, e qua altra comunicazione e quindi indiscrezioni, il Fondo Monetario avrebbe sollevato il nodo della sostenibilità del sistema pensionistico greco. Il governo ha detto che vuole un accordo entro domenica, e speriamo che questa volta non sia un penultimatum come troppo spesso abbiamo visto. Varoufakis dice esplicitamente, ancora una volta, che vuole la ristrutturazione del debito. La pressione dei creditori sulla revisione dell'IVA, aggiunge, è asfissiante. Di questo ha parlato anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, nel suo intervento all'Assemblea annuale di Grecia. Sentiamo. Il negoziato con la Grecia è il paradigma perfetto dei nostri limiti. Affrontata al suo emergere iniziale, la crisi ellenica sarebbe già risolta. Poi si è gonfiata di orgoglio e rigidità da un lato, di inaffidabilità elettoralistica dall'altro, in una miscela che può essere micidiale. L'esito della trattativa in corso è incerto, ma una certezza però l'abbiamo. Il default greco, anche senza l'uscita dalla moneta unica, sicuramente non aiuterebbe il rilancio dell'economia europea e la timida ripartenza italiana. Non c'è stato solo quello nell'intervento di Squinzi, e come già vi dicevamo ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, un riconoscimento al lavoro del governo, ma anche una frase che dice attenzione, continuano a permanere delle manine che mettono nei provvedimenti delle norme antiimpresa. Sentiamo. Le migliaia di norme che si sono stratificate negli anni per rendere dura la vita dell'imprenditore, dobbiamo ammettere che hanno avuto un certo successo. Anche con questo governo, che pare più attento, la manina antiimpresa ogni tanto si esercita nelle piaghe dei provvedimenti assunti nei diversi livelli istituzionali. L'intervento del governo è stato affidato al ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, che dice: abbiamo dimostrato che questo è il governo che non ha diffidenza verso le imprese, ma ha cercato di risolvere molte delle questioni che ponevano da molti anni. In sostanza, dice Guidi, vi abbiamo risposto. Io stessa, insomma, appunto, ho frequentato queste stanze, ricordo di aver sentito alcuni esponenti di governo, alcuni ministri promettere molte cose e poi magari ritornare un po' a mani vuote o con meno cose di quelle che avevano promesse. Io forse non so, non vorrei sembrare presuntuosa, però credo che questa volta il governo vi ha dato molte delle risposte che voi aspettavate. Aggiunto Guidi, il governo ha fatto di tutto per fertilizzare il terreno, adesso sta a voi il compito, direi l'obbligo, di seminare. Poi ha dato anche qualche notizia, ossia che ha firmato il decreto attuativo per il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, che da oggi diventa pienamente operativo. Abbiamo parlato spesso di segnali di ripresa in queste settimane, in questi giorni. Allora, un'ovvia premessa. Quando vi forniamo qualche dato positivo, non stiamo dicendo che va tutto bene, oppure che improvvisamente il paese è in una condizione straordinaria. Vi stiamo solamente dicendo che arrivano dei segnali congiunturali positivi. Questo non toglie che negli ultimi 6-7 anni abbiamo bruciato una quantità di produzione e una quantità di PIL enorme. E dunque, quando vi diamo qualche segnale positivo e ci scrivete: ah, ma voi non vi rendete conto, non girate, le fabbriche ancora chiudono, sono cose che sappiamo perfettamente. Stiamo solo dando conto del fatto che forse la parte più buia della crisi è finita. Che la ripresa sia lenta e sia troppo lenta, siamo perfettamente d'accordo. Fatta questa lunga premessa, andiamo ai dati, perché arrivano primi segnali positivi per il mercato immobiliare non residenziale italiano dopo 7 anni di cali. Il settore commerciale cresce del 5,7% nel 2014, quello produttivo del 3,6%, mentre resta in negativo il mercato del terziario, ossia gli uffici, meno 4,6%. La crescita complessiva è del 3%. Va bene anche il leasing immobiliare, si conferma la ripresa registrata inizio 2014 con un andamento positivo sia per il numero di stipule, più 21,4%, che per il valore dei finanziamenti, più 38,3%. Corrado Piazzalunga, presidente, abbiamo raggiunto il presidente dell'Associazione Nazionale delle Società di Leasing Assilea, Corrado Piazzalunga, che Assilea che ha presentato il rapporto insieme all'Agenzia delle Entrate. La ripresa che c'è stata nel 2014, che tra l'altro io continuo a ripetere, è stata sia sul fronte del numero dei contratti che oltre che sui volumi, perché i volumi in un certo senso potrebbero essere condizionati da qualche operazione straordinaria, mentre una crescita più frazionata e diffusa è sicuramente un sintomo, un segnale di un qualcosa che è più virale, che è più diffuso, e quindi abbiamo avuto un 2014 che ha registrato un andamento particolarmente positivo, quindi sia sotto il profilo del numero delle stipule che quello del valore dei finanziamenti, quindi un anno che archiviamo sicuramente in un tono positivo. Devo dire che anche all'inizio del 2015 è contraddistinto dallo stesso tendenziale, perché se guardo il primo quadrimestre 2015 abbiamo ancora un più 13% nel numero dei contratti e quasi un valore leggermente superiore all'8% in termini di valore. Allora, per spingere questo mercato, il mercato del leasing, ci sono due proposte vostre, una che per un intervento legislativo che tipizzi, per così dire, il contratto di leasing, regolando il comportamento delle parti e dando evidentemente maggiore certezza, e poi dall'altra parte quella di estendere i contratti di leasing alla prima casa per i giovani sotto i 35 anni con un reddito massimo di 55.000 euro. Ce la spiega? Sì, qui si sta parlando appunto del leasing come una delle forme facilitanti l'accesso al credito per quanto riguarda i giovani, e con dei meccanismi anche di deducibilità di quelli che sono i canoni sostenuti e di quello che può essere un canone di riscatto finale, e con dei criteri di partecipazione che siano differenziati con criteri soggettivi di età, cioè se precedenti 35 anni o successivi i 35 anni di età, quindi con dei criteri anche di convenienza fiscale differente. Ma l'intento anche in questo caso è trovare uno strumento che elimini vincoli finanziari nei confronti magari di quelle classi che hanno un accesso potenzialmente più difficoltoso al credito. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. Intanto vi leggo questa agenzia appena arrivata, che la diffusione dei dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze sugli studi di settore, per farvi imbestialire un po'. Corniciai, titolari di mercerie, rivenditori di auto e negozi di abbigliamento rientrano tutti tra gli incapienti. Il reddito d'impresa è rimasto nel 2013 sotto la soglia degli 8.000 euro. Non se la passano bene, secondo le dichiarazioni, anche le tintorie, 8.100 euro, giocattolai 8.200 e librai 9.600. Va bene. Passiamo a parlare di Europa e della battaglia che si sta svolgendo sull'etichettatura. Si tiene il Consiglio Competitività che esamina il regolamento dei consumatori con le disposizioni sul made in, sulle merci europee non alimentari. 5. I settori sui quali l'Italia vorrebbe l'etichetta: calzature, ceramica, oreficeria, tessile, moda, mobili. Ma la Germania, insieme ad una serie di altri paesi, il consueto fronte del nord, non ci sta. Laura Cavestri, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Abbiamo un viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, che è stato piuttosto duro oggi durante i negoziati, all'uscita dei negoziati, e dice, parla di situazione surreale, e dice, almeno questi qua, intendendo la Germania, la Lettonia, che è il presidente di turno, smettano di raccontarsi balle sul fatto che vogliono crescita e occupazione. Che cosa sta succedendo? Beh, di fatto oggi non è successo niente, cioè si è confermata una situazione di stallo che è ormai, come dire, presente da molti mesi, perché c'è un pacchetto, un regolamento per la tutela dei consumatori all'interno del quale c'è anche un articolo 7 che come dire, introduce l'obbligo di etichettatura, quindi di tracciabilità per i beni non alimentari che circolano all'interno dell'Unione Europea. Alcuni paesi del nord, tra cui la Germania, che è soprattutto un paese importatore e assemblatore di una catena di catene di fornitura un po' internazionali, e altri paesi che hanno una manifattura più debole, ritengono che questo sia un onere, un problema, e quindi non vogliono assolutamente che l'etichettatura sia obbligatoria. Per noi che invece produciamo Made in Italy, per le nostre imprese avere un'etichettatura obbligatoria e poter, come dire, esportare tutti i nostri prodotti con un'etichettatura obbligatoria, e invece valorizza la nostra impresa e valorizza la qualità del nostro saper fare. Quindi di fatto queste due posizioni sono attualmente inconciliabili. La Germania e altri paesi dicono no a qualunque compromesso. L'Italia dice, e altri paesi tra cui Francia e Spagna dicono l'etichettatura doveva essere generalizzata, ma siamo disposti a come dire, circoscriverla a 5 settori per noi molto importanti, ma soprattutto 5 settori che in base ad uno studio fatto proprio dalla Commissione Europea, quindi da una fonte neutrale, hanno detto sì, a noi l'etichettatura non solo va bene, ma ci aiuta e ci favorisce. Certo, Laura, perché la cosa interessante, uno degli aspetti interessanti di questa trattativa è esattamente questo, c'è uno studio della Commissione Europea che elenca esattamente questi 5 settori ed è lo studio al quale si sta appoggiando l'Italia insieme, se non erro, a Francia, Spagna, Grecia, Croazia e Portogallo, no? Il fronte è questo, al quale si stanno appoggiando questi paesi. E però la Commissione Europea medesima ha deciso di non far suo questo studio. Cerca in tutti i modi, come anche suo compito quello di mediazione, cerca a tutti i costi un compromesso. E allora, in base a questo studio, sono 5 i settori che trarrebbero beneficio dall'etichettatura? Bene, per venire incontro a chi invece è contrario tout court, si dice, beh, allora riduciamola ulteriormente a 1/2 settori, in questo caso alle calzature, e a una parte della ceramica, peraltro, non tutta, anche qui con una specie di, come dire, di costruzione anche un po' bizantina su perché una parte della ceramica sì, l'altra no, ma insomma, si cerca in qualche modo di venire incontro a un fronte del no. Di fatto c'è uno studio che dice che alcune imprese europee, non solo italiane, europee, alcuni settori trarrebbero beneficio da questo. L'Italia lo attende questo provvedimento ormai dal 2003, da molto tempo, e quindi si va avanti per una guerra di logoramento delle posizioni in cui c'è una maggioranza che non riesce a fare approvare le proprie posizioni, una minoranza, in questo caso fa parte l'Italia di questa minoranza molto numerosa che fa blocco, e quindi ancora una volta si deve attendere che in qualche modo le posizioni si avvicinino e quindi si ammorbidiscono. Non si trova una sintesi. Laura, in ultimo ti voglio chiedere, vedi un punto di caduta per tutto questo? Secondo te è possibile una mediazione ulteriore, magari comprendendo per esempio 3 settori invece di 5? Ma di questo ancora non si è parlato, probabilmente il tentativo sarà proprio questo, sarà quello di ampliare questa prima mediazione di un settore e mezzo, diciamo, neanche 2 settori, che è francamente inaccettabile per l'Italia. Probabilmente si cercherà un compromesso, diciamo che però il fronte del no è ideologicamente contrario a qualunque obbligatorietà per 1, per 3, per 5 settori, per cui, come dire, lì effettivamente ci sono dei grossi problemi a trovare effettivamente un compromesso. Probabilmente ci vorranno ancora molti mesi, io temo, e non è escluso che se lo stallo dovesse essere quasi irreversibile, il provvedimento non arrivi addirittura al vertice dei capi di Stato e di Governo, dove appunto arrivano solo partite molto molto molto complesse. Ecco. E quindi in realtà i paesi del nord hanno in mano la carta che potrebbero semplicemente far saltare tutto o lasciar morire tutto, in una parola. Sarebbe un'ulteriore frattura tra sud e nord dell'Europa, sì, che in questo periodo non fa tanto bene, insomma. Grazie a Laura Cavestri del Sole 24 Ore. Grazie per il chiarimento e l'approfondimento. Ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo subito dopo per i mercati che chiudono in negativo, 0.5 punto percentuale di calo per il FTSE MIB, lo 0.4 per il FTSE OSCE. A tra poco. Focus Economia. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. Mauro, che ci scrive via sms, non riesco a capire, ma noi non possiamo mettere la nostra etichetta Made in Italy e gli altri facciano quello che vogliono. Certo, possiamo farlo, però il fatto di prevederla a livello europeo ti dà un potere sanzionatorio nei confronti di chi non rispetta questa norma o di chi utilizza il marchio in maniera sbagliata molto più forte, evidentemente. E ancora sui segnali di ripresa, la premessa l'ho fatta prima, e quindi non dateci degli illusionisti, cioè stiamo solo dicendo che c'è qualche segnale positivo dopo 6 anni molto pesanti. Siamo alla borsa, che invece non è positiva oggi. Mezzo punto percentuale di calo per il FTSE MIB, meno 0,4 per il FTSE O'Share. Parigi meno 0,86, Francoforte meno 0,79, Londra in guadagno dello 0,03%, quindi poco sopra la parità. Negativa anche l'America, Dow Jones che cede lo 0,3%. Leonora Micheli, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buonasera, buonasera, mi sono sbagliato io. Che giornata è stata? Sì, come hai detto tu, oggi le borse europee sono state deboli, visto che sono tornati a prevalere i timori su una risoluzione della crisi della Grecia. Del resto, anche se il governo Tsipras, il portavoce del governo Tsipras, ha ribadito che un accordo potrebbe essere raggiunto entro domenica, non sono dello stesso avviso. Tuttavia, né Wolfgang Schäuble, il ministro tedesco delle finanze, che addirittura ha detto Atene non è più competitiva, vanno a sconti sul debito, o si fanno le riforme o il paese non può restare nell'euro. E anche Christine Lagarde, la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ha ribadito che c'è ancora molto lavoro da fare e che risultati sostanziali non sono stati raggiunti. Quindi ancora come dicevamo anche in apertura, ancora dichiarazioni attendiste sostanzialmente anche dal Fondo Monetario Internazionale. Tutto questo ha avuto un impatto, mi sembra di capire, soprattutto sulle banche. Popolare Emilia Romagna meno 2,02, UBI Banca meno 1,4, Monte dei Paschi meno 1,3, ma questa è una storia diversa e ci arriviamo tra un attimo. Unicredit meno 1%. Eh sì, le banche infatti hanno perso terreno, anche perché quest'oggi i titoli di Stato, il rendimento dei titoli di Stato è tornato a salire sia sul mercato secondario sia anche sul mercato primario. Il Tesoro ha collocato dei BTP, il cui rendimento è salito, anche se ad esempio i decennali si continuano ad attestarsi al di sotto del 2%. Ovviamente ciò non fa male, non fa bene alle banche, che ricordiamo nella maggior parte dei casi hanno una grande quantità di titoli di Stato nei propri portafogli. Monte dei Paschi invece? Monte dei Paschi procede l'aumento di capitale da 3 miliardi che è partito lunedì scorso. I titoli hanno perso l'1,3%, chiudendo a 1,82 euro. Si sono invece mossi al rialzo i diritti, più 2,2% a 5,7 euro. Perché questo movimento diverso tra diritti e azioni? Cioè, è un movimento tecnico, fino a che ovviamente non saranno ben allineati i prezzi. Migliore sul listino oggi ST Microelectronics, più 3,3%. Eh sì, in questo caso in verità è una notizia che relativa al settore dei chips, che alla fine ha messo le ali a tutto il comparto, diciamo, dei titoli tecnologici. A Milano ST Microelectronics in particolare è stato reso noto che sono state realizzate nozze da 37 miliardi di dollari tra il gruppo Avago, che ha praticamente sede sia negli Stati Uniti sia a Singapore, e Broadcom, una società statunitense. Si tratta di un'operazione fatta sia cash sia attraverso uno scambio azionario, valutata appunto 37 miliardi di dollari. Generali ha presentato i target futuri del gruppo, non hanno entusiasmato gli analisti, c'è un calo dell'1,43%. Finmeccanica invece, per tornare ai titoli positivi, più 2%. Sì, Finmeccanica diciamo che ha festeggiato soprattutto la notizia che l'ha controllata l'Enea Ermac, che ha raggiunto un accordo con i sindacati per il ricollocamento di 178 dipendenti. Invece diciamo è passato in secondo piano la notizia in base alla quale sarebbe stato rinviato il closing della vendita di Ansaldo STS e Ansaldo Breda, ma questo, come ha sottolineato Repubblica, potrebbe essere solo per il fatto che le autorità cinesi stanno vagliando con grande attenzione l'operazione e dunque hanno richiesto più mesi. Probabilmente il closing avverrà alla fine dell'anno. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Core Il Sole 24 Ore, buona giornata. Ci ha parlato di Cina ed è proprio di Cina che parleremo tra un attimo, subito dopo la viabilità, perché abbiamo un nuovo caso di insolvenza su obbligazioni, un nuovo, il terzo in poche settimane, e c'è qualche preoccupazione che riguarda le aziende cinesi, che tra l'altro si è riflessa anche, come vi raccontavamo in apertura, su come sono andate le borse, come è andata la borsa cinese oggi, dopo il traffico. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Focus Economia. Are you with me? Ed eccoci di nuovo, non vi dico nulla di nuovo perché siete ascoltatori attenti ai temi dell'economia, che dove c'è una crescita tumultuosa, particolarmente tumultuosa, in genere si nasconde qualche squilibrio, che sia economico, sociale o finanziario, è inevitabile. E forse in queste ore stiamo scoprendo uno degli squilibri della tumultuosa crescita cinese. Abbiamo in studio con noi Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, buonasera. Buonasera. Dicevamo, terzo caso di insolvenza in poche settimane, e paura che questa questione possa essere un po' più estesa di quello che vediamo adesso. Sì, allora in Cina c'è un tema molto importante, quello dell'indebitamento privato. Soprattutto le aziende hanno un debito gigantesco in Cina. Pensate che nel 2007 il debito delle imprese era pari al 98% del PIL, che già era grande, attualmente al 155% del PIL, quindi non dico raddoppiato ma quasi in pochi anni. E quindi un debito molto grosso, tra l'altro concesso non solo dalle banche ma anche da questo sistema bancario ombra, shadow banking, che desta molte preoccupazioni. Per di più c'è molta speculazione in borsa, perché una serie di normative hanno in un certo senso agevolato l'ingresso dei risparmiatori in borsa. C'è grande ottimismo a livello internazionale tra i fondi, gli hedge fund, gli investitori verso la Cina, e quindi stanno affluendo grandi capitali nella borsa cinese, che negli ultimi 12 mesi ha guadagnato il 140%. Il problema è che è una crescita abbastanza squilibrata, nel senso che le imprese sono molto indebitate e anche gli stessi investitori si indebitano, tant'è vero che è molto in voga la pratica di comprare azioni, darle in garanzia alla banca, prendere altri soldi per comprare ulteriori azioni, quindi una leva finanziaria, un debito che serve per comprare azioni, pratica comune in molte parti del mondo ma in Cina molto molto forte. Questa cosa desta da molto tempo preoccupazione. Adesso negli ultimi tempi il governo sta iniziando, per cercare di rendere il mercato finanziario cinese più occidentale, sta iniziando a lasciar sì che anche le aziende iniziano a fallire sul mercato obbligazionario. Ieri c'è stato il terzo default, tempo fa, un mesetto fa, era andata in default addirittura una società a controllo pubblico. Le banche stanno aumentando i crediti in sofferenza nei loro bilanci, anche se sono ancora a livelli bassi, ma comunque stanno aumentando in maniera esponenziale, quindi si iniziano a vedere i primi segnali di una bolla del credito, comunque i primi segnali, le prime crepe in questa grande crescita del credito, o quantomeno dell'esplosione di questa bolla. E come si sta muovendo il governo? Da una parte con un laissez-faire tipicamente occidentale, mi dicevi, no? Quindi iniziano a lasciar fallire queste aziende. Dall'altra parte ci sono misure, dico governo intendendo banca centrale, ma sappiamo che là le cose funzionano in maniera diversa che da noi, insomma, misure di stretta creditizia, per sì, esempio. Lì si stanno muovendo su due direttrici in parte in contraddizione l'una con l'altra. Cioè, da un lato la banca centrale sta stimolando moltissimo l'economia, tutti sanno che la crescita cinese sta rallentando, l'economia cinese sta molto rallentando, hanno anche una dinamica demografica che inizia a diventare negativa e quindi hanno bisogno di stimolare l'economia. Quindi la banca centrale cinese sta facendo un'operazione molto simile al quantitative easing che sta facendo anche in Europa la banca centrale europea. D'altro canto però, siccome si rendono conto di questa bolla creditizia molto forte, stanno facendo normative o una serie di regolamentazioni per stringere la bolla del credito, e il crollo che c'è stato oggi, stanotte, alla borsa di Shanghai è in parte derivato proprio da queste strette, in questo caso fatte da alcune società di brokeraggio che hanno limitato la possibilità di dare in prestito azioni, di dare in garanzia azioni per prendere finanziamenti e comprare altre azioni. Quindi il crollo di oggi è stato proprio causato da una di queste strette che si stanno cercando di mettere in piedi per evitare che l'eccesso di debito porti a aumenti ulteriormente la bolla speculativa in Cina. Abbiamo un minuto, Moria, nel frattempo vi dico, per darvi un'idea, il gruppo che è fallito ieri aveva guadagnato da inizio anno il 125% in borsa. Vorrei capire che visibilità abbiamo e hanno gli investitori sulle condizioni finanziarie delle aziende cinesi, perché questo forse è l'altro tema da capire. La Cina è un paese molto diverso da noi e credo che molti investitori fatichino un po' a comprenderlo. Noi stessi fatichiamo a comprendere una cultura, un'economia molto diversa dalla nostra. Temo però che il problema sia un altro, nel senso che io sono stato tempo fa, 15 giorni fa, a un convegno di alcuni hedge fund, fondi speculativi, tutti molto positivi sulla borsa cinese, ma il motivo per cui erano positivi non era per un motivo fondamentale di economia, erano positivi per motivi puramente tecnici, perché sono convinti che la borsa cinese peserà peserà di più negli indici globali, perché sono convinti che ci siano una serie di motivi tecnici che spingeranno al rialzo le azioni e quindi comprano le azioni. Cioè, la sensazione è che molti investitori comprino Cina pur sapendo che la Cina sta rallentando, pur sapendo che ci sono gravi squilibri, per motivi tra virgolette tecnico-finanziari, e questo secondo me rischia di essere un problema proprio nell'atteggiamento degli investitori internazionali che stanno facendo affluire in Cina oggettivamente un sacco di soldi. Grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore per i chiarimenti. Vi ricordo come sempre il 349-238-6666 per i vostri sms. Vi ricordo che ci ritroviamo subito dopo il giornale radio per fare il punto sull'assemblea annuale di Confindustria, l'intervento del presidente di Confindustria Squinzi, la risposta del governo, le reazioni a margine, tutto questo appunto tra poco dopo il giornale radio. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Qualcuno ci scrive a proposito del tema che stavamo trattando prima, ossia la Cina e le aziende che iniziano ad andare in default schiacciate da un debito troppo alto. Abbiamo citato lo shadow banking, ossia il sistema bancario ombra. Ci dice qualcuno, non è una parolaccia, si tratta di prestiti concessi da aziende che non sono banche o da qualcuno che non è una banca, non è di per sé un male, lo sappiamo benissimo. Detto ciò, dipende da come è gestito. Il problema è che non sappiamo quale sia la dimensione dello shadow banking in Cina. E che rischi finanziari possa portare. Veniamo all'assemblea annuale di Confindustria, quest'anno non a Roma ma all'Expo di Milano. C'erano tra gli altri il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, il presidente di Expo e commissario del padiglione Italia Diana Bracco, il commissario unico dell'Expo Giuseppe Sala, molti ministri, Giuliano Poletti, Martina, il ministro delle politiche agricole che ha una delega specifica per l'Expo, tra l'altro. Arriva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tornare alla crescita richiede uno sforzo in termini di innovazione e investimenti, terreno dove l'Italia si colloca ancora al di sotto di altri paesi industrializzati. Renzi, che scrive direttamente al presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, dobbiamo ritrovare slancio e fiducia, guardare al futuro con l'ottimismo di chi è consapevole della propria dedizione e del proprio impegno. Dice ci sono segni solidi di svolta economica. Renzi si scusa per non essere presente, impegnato in un lungo viaggio nelle regioni italiane, nel mezzogiorno, oggi era a Melfi, nello stabilimento di Fiat Chrysler. Mi ha raggiunto in studio Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera. Iniziamo però sentendo alcune delle frasi del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, nella sua relazione annuale, una relazione nella quale ha riconosciuto di fatto il lavoro del governo, ha parlato di germogli di ripresa che si iniziano a vedere, che però vanno protetti con forza, ha toccato il tema di come vengono trattate le imprese e la cultura nei confronti dell'impresa in questo paese. Iniziamo però da un momento nel quale Squinzi si rivolge al governo, dice con le riforme si sta muovendo qualcosa e qualcosa sta cambiando, e questa è una testimonianza del lavoro tanto nostro quanto dello stesso esecutivo, e non abbiamo niente da chiedere eccetto che il governo resti determinato. Qualcosa e non poco si muove e sta cambiando. Le riforme avviate e alcune misure di politica economica adottate testimoniano del lavoro svolto dal governo e, lasciatemi orgogliosamente dire, sono una cifra importante anche dell'impegno di Confindustria in favore delle imprese. La dimensione degli interventi avviati ne testimonia meglio il valore. 40 miliardi di soldi nostri che la pubblica amministrazione ci ha finalmente pagato, anche se il meccanismo non è certo a regime. 5,6 miliardi di riduzione dell'IRAP. 2,6 miliardi di abbattimento degli oneri sociali nel 2015, la moratoria sui debiti bancari che da sola vale una finanziaria, poi ci sono il decreto Poletti e il Jobs Act, che finalmente dopo anni si allineano ai nostri competitori europei in materia di lavoro. La delega fiscale, che scrive le regole di un fisco diverso, anche se la pressione fiscale resta a livelli intollerabili per cittadini ed imprese. Il vero ostacolo a nuovi investimenti e alla crescita duratura. L'alternanza scuola-lavoro, il credito d'imposta sulla ricerca, il patent box e l'impegno sull'internazionalizzazione. Oggi non ho richieste, né intendo lamentarmi con il governo di alcunché. Gli chiedo semplicemente di non smarrire la determinazione, perché questa è la precondizione necessaria, indispensabile per cambiare il nostro Paese e perché i compiti tuttora pendenti e in attesa di soluzioni da anni sono molto, ma molto impegnativi. Tra l'altro il bonus, il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, oggi proprio dall'Assemblea di Confindustria è arrivata una notizia importante, la citava, lo citava Squinzi, il bonus, lo stesso ministro Federica Guidi ha detto ho firmato il decreto attuativo, da oggi è operativo. Guido, una promozione del governo, insomma, non mi sembra ci sia poco da dire su questo. Sì, il giudizio positivo su quello che ha fatto il governo e poi con qualche cifra alla mano, come abbiamo sentito, cioè quindi in particolare per quanto riguarda l'IRAP, i minori oneri sociali, la restituzione dei soldi dovuti dalla pubblica amministrazione alle imprese. Un giudizio positivo che segue anche quello di due giorni fa, quello del governatore della Banca d'Italia, che ha dato anche lui un giudizio sostanzialmente positivo sull'attività del governo. Certo, lo stesso Squinzi poi ha però indicato un'area vasta, diciamo, che ancora è suscettibile di possibili interventi, e quindi in generale su quello che serve per migliorare l'ambiente che fa da sfondo l'attività delle imprese, e qui appunto ha citato anche dei punti che sono importanti: la certezza delle regole, i ritardi della giustizia, e credo che su questi terreni ovviamente si parlerà nei prossimi mesi e nella predisposizione della legge di stabilità che verrà fatta in autunno. L'impressione è che insomma il presidente di Confindustria abbia detto ok, per come avete operato fino adesso va bene, noi saremo il vostro pungolo su tutto quello che viene dopo, no? Esattamente, esattamente. È proprio così, è un giudizio positivo che si affianca però a un'insistenza ancora sui temi che sono rimasti irrisolti. Del resto poi nell'intervento successivo lo stesso ministro Guidi su questo ha detto che effettivamente il lavoro non è finito e che deve continuare, e in particolare pensiamo per esempio a quello che il livello della tassazione, Squinzi ha ricordato che è insostenibile, e su questo terreno credo che bisognerà insistere. Allora, così in generale sull'attività di governo, intanto chiedo a Pietro Lacorte, che è in regia, di caricare un file audio dal quale abbiamo già sentito una parte nella prima parte della trasmissione, in apertura, che è sul tema di chi vede nemici gli imprenditori, perché se vogliamo trovare insomma la nota non di dissenso, però insomma una piccola nota critica nei confronti dell'esecutivo, dicendo sì, avete fatto meglio di altri governi, però anche da voi c'è qualcuno che mette la manina nei provvedimenti dove non dovrebbe. In patria, si sa, nessuno è profeta, e da noi la cultura anti-industriale è ben radicata. Batterla è la riforma più difficile che dobbiamo realizzare. Gli imprenditori hanno bisogno di sentire intorno a sé una società che considera l'impresa come un patrimonio e un valore da difendere. Le migliaia di norme che si sono stratificate negli anni per rendere dura la vita dell'imprenditore, dobbiamo ammettere che hanno avuto un certo successo. Anche con questo governo, che pare più attento, la manina antiimpresa ogni tanto si esercita nelle piaghe dei provvedimenti assunti nei diversi livelli istituzionali. I reati ambientali, il nuovo falso in bilancio, nuove autorizzazioni di varia natura, il canone sugli imbullonati o la TASI sull'invenduto, che faccio sempre fatica a raccontare all'estero, tanto sono assurdi, In generale, una giurisprudenza studiata e scientificamente realizzata contro l'impresa non nascono dal caso, ma da una cultura, da un abito mentale diffuso che pensa ancora all'imprenditore come a un nemico della collettività. Il traffico e poi ci torniamo. Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it. Vi presenta Focus Economia. Eccoci di nuovo, 349-238-6666, quasi come Guido Gentile, come se Squinzi dicesse c'è una sorta di tic, no? Che poi non si sa se sia all'interno della pubblica amministrazione o all'interno del governo. Piena è la storia d'Italia di manine e manone che di volta a volta intervengono, quante volte lo abbiamo visto anche su temi squisitamente politici, il momento in cui magari si mette mano a un decreto importante e all'ultimo momento esce che questo viene modificato o sparisce invece qualche norma, e quindi si è sempre un po' un paese che è sempre alla ricerca di qualche manina che sul punto legislativo poi fa qualche pasticcio. Solo che poi non la scopriamo mai. E questo sì, questo è l'altro problema. E qua c'è, come dire, il punto forse di critica ad alcuni provvedimenti del governo, appunto essenzialmente antiimpresa, sul falso in bilancio. Là, tra l'altro, proprio dall'Assemblea di Confindustria oggi è arrivata una sorta di apertura dal vicepresidente del Senato, Schifani, dell'NCD, che dice, insomma, là forse ci possiamo rimettere mano. Sì, il falso bilancio poi più che altro non è tanto la contestazione, mi sembra, sul fatto che sia stato reintrodotto il falso in bilancio, ma quanto sull'incertezza, diciamo, che le nuove norme possono comportare. Quindi appunto si può, credo ci sia lo spazio per poter intervenire e correggere quello che si può correggere, ecco, da questo punto di vista. E altrettanto sul tema degli ecoreati, sì. Tema che tra l'altro abbiamo toccato anche in questa sede. Allora veniamo al coraggio, cioè è stato un momento nel quale Squinzi si rivolge direttamente alle imprese, quindi non più al governo. Sentiamo. Ai più giovani dobbiamo raccontare che noi siamo stati e siamo e saremo protagonisti, non comparse, della storia dell'industria mondiale, quella già scritta e quella che è ancora da scrivere. Per esserlo dobbiamo dotarci di quello stesso coraggio e della stessa voglia di rischiare per modernizzare la nostra società che hanno caratterizzato gli anni del dopoguerra. Stiamo vivendo non tanto un'epoca di cambiamento, ma un cambiamento di epoca, ci ha ricordato magistralmente Papa Francesco. Così sul coraggio, l'esortazione agli imprenditori. E poi c'è un tema che ha dominato in realtà tutta la prima parte della relazione di Squinzi, che è quello dell'Europa. Dice il presidente di Confindustria che serve un colpo d'ala, e dice quello che... la cosa della quale ci rendiamo conto tutti, che in questo momento l'unica istituzione europea che stia funzionando come veramente europea è la Banca Centrale. L'Italia, aggiunge, ha la credibilità per essere il leader di una nuova stagione comunitaria. Sentiamo. L'Italia ha la credibilità per essere leader di una nuova stagione comunitaria, perché non ha mai abiurato al suo credo europeo e perché ha fatto sforzi notevoli per mettere a posto i propri conti e realizzare riforme importanti. Noi dunque ci possiamo permettere di dirlo: gli europei saranno tali se torneranno a pensare in grande e con un progetto culturale comune, come fecero a suo tempo Spinelli, De Gasperi, Schuman, Adenauer, Monnet, Spaak e la classe politica uscita da una feroce guerra globale. L'Europa fa fatica a tenere il passo dell'innovazione su scala globale. È pesante, lenta e divisa. A un anno dalle elezioni del Parlamento di Strasburgo, dalle quali era venuta una forte domanda di politiche in favore della crescita e dell'occupazione, poco è cambiato e gli investimenti che si attendevano languono. È stato varato un piano che, pur avendo aspetti interessanti, ha una dimensione ridotta, molti dubbi da chiarire sul suo funzionamento e nessuna garanzia che attivi spesa aggiuntiva. A oggi La sola istituzione che agisce davvero per l'integrità e il rilancio dell'economia è la Banca Centrale Europea guidata da Mario Draghi. È superfluo precisare che questa non può sostituirsi all'Unione degli Stati. Perciò non c'è alternativa, occorre un colpo d'ala. La politica deve riacquistare il ruolo e la dignità che le diedero i padri fondatori. A questa Europa manca l'anima e il cuore. Da europeista convinto, lo dico con grande rammarico, quella di oggi non è l'Europa che mi piace. E intanto arriva un'agenzia, una dichiarazione di Christine Lagarde al quotidiano tedesco Faz. Dice: l'uscita della Grecia dall'euro è una possibilità. Giusta, giusta, Guido Gentili. Sì. Tanto perché appunto stiamo parlando di anima e cuore dell'Europa e anche forse dovremmo parlare anche di ragione dell'Europa. Quindi una relazione molto concentrata anche su questo. Verrei adesso alle risposte del governo. Innanzitutto sono arrivate nelle parole del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, che ha detto: il governo ha fertilizzato il terreno, sta a voi seminare. L'Italia sta godendo dei frutti di una congiuntura internazionale favorevole, quindi siamo tutti consapevoli che l'andamento del prezzo del petrolio, il quantitative easing, la svalutazione dell'euro, naturalmente un clima economico in via di miglioramento, sono certamente delle condizioni positive per tutti e naturalmente anche per l'Italia. Ma nulla di tutto questo sarebbe stato sufficiente se noi non ci fossimo preparati, se non ci fossimo impegnati a fondo per arare in qualche modo il terreno, per renderlo fertile e soprattutto per far sì che questo terreno fertile potesse raccogliere e soprattutto moltiplicare i segnali esogeni positivi che effettivamente stavano arrivando. E io penso di poter dire che quando la congiuntura esterna positiva finalmente è arrivata, il governo era lì. Il governo si è reso pronto, era pronto a ricevere quella congiuntura favorevole. Io so che voi avete passato una fase difficilissima, lo so perché, come dire, quando avevamo quelle fasi nel nostro paese io facevo un altro mestiere, quindi mi ricordo bene cosa stava succedendo. Però quella fase io credo ormai sia chiaro per tutti, ce la siamo sostanzialmente lasciata alle spalle. Il governo naturalmente ha fatto di tutto per fertilizzare il terreno di cui dicevo all'inizio. Ora naturalmente anche voi avete un compito importante nel cogliere questi strumenti. Così il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi. Mi sembra comunque di registrare complessivamente una certa concordia, no? Sì, tra, di fondo, certo. Di fondo una certa concordia, Guido. Tra il governo e gli imprenditori su questi terreni. Ripeto, il lavoro da fare è moltissimo, però insomma è un confronto che procede, mi pare abbastanza su dei binari ben definiti. Allora, siamo quasi in chiusura. Prima di chiudere, vediamo se riusciamo a farvi sentire qualche reazione, reazione sindacale. Innanzitutto, Susanna Camusso, che dovremmo avercela, ce l'abbiamo? Via! Che Confindustria abbia un'opinione diversa sul Job Act non mi pare una notizia. La cosa che invece preoccupa è che una relazione fondata sull'innovazione si proponga in realtà la ricetta più antica del mondo, e cioè quella della riduzione dei salari, esattamente l'opposto di quello di cui ha bisogno questo paese per crescere. C'è una ripresa. Così dunque Susanna Camusso. Devo dirti la verità, Guido, a me non sembra di aver identificato nulla di tutto ciò all'interno della relazione di Squinzi. Infatti non mi pare che si parli di riduzione dei salari, si parla di una riforma della contrattazione, quindi di verificare la possibilità di spostare a livello di dove il lavoro viene fatto, e quindi a livello territoriale, a livello delle fabbriche, questa componente, diciamo, di fare una componente più forte del secondo livello di contrattazione. Quindi non mi sembra che sia un discorso di riduzione dei salari, anzi mi pare che in questo senso, se c'è la ripresa e quindi si possa legare evidentemente a dei risultati importanti in termini di aumento della produzione e della produttività, si possono legare degli aumenti dei salari. Sì, in effetti Squinzi dice: rivendichiamo il diritto di essere noi stessi, e si rivolge ai sindacati, a regolare i nostri rapporti piuttosto che qualcuno proceda per legge, e chiede legami più forti e stringenti tra salari e produttività, e chiede anche però che le imprese non siano costrette a sommare sommare i costi dei due livelli di contrattazione, insomma, esatto. quello nazionale e quello di produttività. Ancora, Anna Maria Furlan, della segretaria generale della CISL, al microfono, così come lo era Susanna Camusso di Livia Zancanera. Io la penso esattamente come Squinzi. Noi dobbiamo essere l'Italia del sì, l'Italia che mette al centro il lavoro, gli investimenti, a partire dagli investimenti infrastrutturali. E accolgo come CISL assolutamente e immediatamente l'invito a Squinzi a individuare assieme associazioni industriali e sindacato confederale nuove relazioni industriali e un nuovo modello contrattuale. Un modello contrattuale che quindi, si basi su... Guido, anche qua un'apertura importante, forse dalla CISL era facile attendersela. Sì, però perché questa fa parte un po' della storia della CISL, questa sottolineatura dell'importanza della contrattazione anche a livello aziendale. Però questo è un dato importante, perché in questo momento appunto che dal sindacato venga, o almeno da una parte importante del sindacato, venga questa apertura, credo che sia un fatto politicamente anche significativo. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, Pietro Lacorte in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Focus Economia torna domani alle 17 con il titolare Sebastiano Barisoni. Noi invece ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24. La passione si sente.